Varcando la porta ho dato uno sguardo azzurro all'abisso di Mondrian, dal tipico squillo di Upon e madri d'esausto ingessate. Serafici lemuri in candida seta che Vogue così decretava, sniffavano oro e la gogna era una chiglia senza falle. In questo universo Kokoschka, la dolce tristezza era rossa. Vestiva l'azzurro e occhi scuri, con lui che calzava sogni chiari. Moglie e madre compagna, correnti muoveva d'oceano. Ed erano caldi lidi e spiagge chiare, molle di sogni serrate. Poi, chiusa la porta all'abisso, restavano sfondi leonardeschi. Con legni accendevo sigarette e madri felici baciavano il neonato. Giostrando coi venti il destino, chiedevo nell'alba dove andare. Dal cielo la voce di Mondrian rispose che è solo un cercare l'arrivo.